Sei diverso da noi, ma che vuoi? Sono gay, fatti miei. Che disturbo ne hai? Quale enorme disagio ne trovi?